Il voto in Angola, dove per non cambiare nulla si cambierà tutto. Il divieto del divorzio istantaneo islamico in India, la mattanza in Messico. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Hoy por la mañana hubo un enfrentamiento entre elementos de la Marina y presuntos delincuentes de un grupo llamado el Cártel de Tláhuac. After 38 years in power, President José Eduardo dos Santos reckoned it's time he stepped down. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, preparatevi a un nuovo viaggio. A viaggiare con voi ci sono io, Giampaolo Musumeci, ma anche Antonio Tali, Elisa Pancaldi in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Durante questo viaggio in tre paesi, in tre situazioni diverse, potete mandare i vostri commenti e le vostre domande al 349-238-6666 SMS oppure WhatsApp. Potete twittare agli account Nessun Luogo 24 oppure Giampaz e potete seguirci, c'è anche la diretta Facebook alla pagina Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Come avete sentito dalla sigla, si parla anche di Messico ed è lì che io vi porto. También de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Partiamo dal Messico perché gli episodi di cronaca abbastanza recenti, in particolare il mese di giugno, è sotto la lente delle varie organizzazioni che lottano per i diritti umani e umanitari, appunto, è stato il mese più letale dalla 20 anni a questa parte nella storia messicana. Oltre 2200 i morti per una recrudescenza di violenze che coinvolge non solo, ma soprattutto i cartelli della droga in Messico. È un tema di cui ci siamo occupati spesso nelle edizioni di Nessun Luogo Lontano e continueremo a farlo, anche perché il Messico sta diventando sempre più un luogo difficile da raccontare anche per i giornalisti. Per capire cosa sta accadendo, per capire se questa recrudescenza di violenza è dovuta anche al vuoto di potere lasciato dal Chapo, ci soccorre Fabrizio Lo Russo. Lo ricordo, insegna all'Università Iberoamericana di León, appunto in Messico, scrive per la Jornada Semanal, Zona Franca e Huffington Post Italia. Fabrizio, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, eccomi qui. Allora, io ricordo fra l'altro il tuo ultimo libro è Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga, editore Odoia, che è un libro che io consiglio vivamente per capire meglio le dinamiche di un paese che, dobbiamo dirlo, è in guerra, perché 2200 morti in un mese sono situazioni da conflitto dichiarato, da conflitto aperto. Cosa sta accadendo, Fabrizio Lo Russo? Intanto comincerei col dare la notizia, parlavi anche dei giornalisti, proprio ieri sera è stato ucciso da un commando armato nello stato del Veracruz, uno degli stati più letali, più pericolosi per i giornalisti in Messico, il reporter Candido Rios, di mezzi di comunicazione locali dello stato del Veracruz, che era anche protetto dal meccanismo del Ministero degli Interni, ed è il decimo giornalista ucciso violentemente quest'anno, quindi oltre la media dell'anno scorso che era di uno al mese, che già è una media altissima, no? Sì. E qui da una parte chi racconta, ma da una parte anche la popolazione, perché l'anno scorso è stato l'anno peggiore, ma del periodo di governo di Peña Nieto, ricordiamo, da fine 2012 ad oggi, con 24.000 morti per omicidio doloso, quindi morti ammazzati, e buona parte di questi relazionati comunque alla cosiddetta guerra al narcotraffico, che è una strategia militare, no, di lotta ai cartelli o di lotta tra, che poi scatena anche lotte tra gli stessi, sì, gruppi criminali e il governo, all'interno degli apparati di governo pure, delle polizie, dei militari, eccetera. Questa strategia dura da oltre 10 anni. Fabrizio, quest'anno sembra essere ancora peggio di quello passato. Fabrizio, hai accennato a quanto difficile è raccontare il Messico per i giornalisti. Proprio pochi giorni fa la CBS ha fatto uno speciale di una decina di minuti, fra l'altro lo trovate sul sito cbsnews.com, e l'ha chiamato Deadliest Assignment, cioè l'assignment, l'incarico più mortale. Sentite questo estratto. Quando sale algo per il valle procuriamo sempre ir in bolla, o sea, ir en pool de compañeros de otros medios, pues al menos no nos garantiza que no nos vaya a pasar algo, ¿no? Te sientes seguro a ti. Come sentite, l'inviato della CBS era sul posto di un omicidio, il che è molto facile quando si lavora in Messico, nel senso che ai noi, avete sentito, gli omicidi sono tantissimi, e incrocia i passi di un fotografo locale, un giovane fotografo messicano, e gli chiede: ma hai paura? Sì, ho paura, di solito noi giornalisti messicani lavoriamo in team, ma questo non ci garantisce che nulla possa accadere, quantomeno una prima salvaguardia che noi possiamo mettere in campo. Prima di continuare l'analisi, Fabrizio Lorusso, su quello che sta accadendo, proviamo a fotografare il Messico dei cartelli e non solo. A Tijuana, la città da quasi 2 milioni di abitanti dello stato di Baja California, al confine con gli USA, solo nell'ultimo fine settimana sono stati commessi 21 omicidi. Ad agosto, finora, sono state uccise 106 persone. Ad Acapulco, la più famosa spiaggia di tutto il Messico, nello stato di Guerrero, dall'inizio dell'anno sono stati commessi 412 assassini. E secondo il quotidiano locale Milenio, sono quasi 2000 le attività lavorative chiuse in città negli ultimi 3 anni. Il Messico brucia. Il Messico è in ginocchio per l'infinita guerra dei narcos. Secondo i dati del governo centrale, il mese di giugno è stato il più sanguinoso degli ultimi 20 anni, con un totale di 2.234 morti ammazzati su tutto il territorio nazionale. Vengono uccisi narcos, piccoli criminali, poliziotti, attivisti e reporter. Nello stato di Veracruz, martedì 22 agosto, è stato assassinato Cándido Ríos, un giornalista di Diario Acayucan, che era già stato sottoposto a un programma di protezione speciale del governo per i reporter minacciati. È il nono giornalista ucciso dall'inizio dell'anno. Molti osservatori ritengono che queste continue esplosioni di violenza, ancora più scatenata che negli anni scorsi, sia collegata alla scomparsa dal palcoscenico di Joaquín El Chapo Guzmán, il boss dei boss, capo del cartello di Sinaloa, arrestato nel 2016 ed estradato negli USA nel 2017. Il vuoto di potere creatosi dopo l'arresto del Chapo avrebbe aperto un nuovo capitolo della guerra dei narcos, sempre più complicata da decifrare a causa della presenza di numerosissimi gruppi regionali dalle alleanze variabili. Siamo con Fabrizio Lorusso, docente ma anche giornalista freelance, si occupa proprio di questa lunga guerra tra i cartelli, tra i narcos messicani. Fabrizio Lorusso, nella scheda accennavamo a questa possibile interpretazione, il vuoto lasciato da El Chapo, potrebbe essere una delle spiegazioni della recrudescenza appunto di cui stiamo dando conto? Sì, sicuramente sì, specialmente a Tijuana, dove c'era stato un periodo precedente di guerra, per cui più che dalle politiche del governo, in alcune realtà, soprattutto di frontiera, dove ci sono degli snodi per il passaggio degli stupefacenti, come Tijuana, per esempio, lo stato del Guerrero e Ciudad Juárez, eccetera, è che in alcune città sono più le dinamiche criminali tra differenti gruppi organizzati che le politiche che sono rimaste più o meno costanti negli ultimi 10 anni. Ecco, lì è in atto uno scontro dal 2016 perlomeno, quindi a partire proprio dall'estradizione, l'incarceramento di Chapo, ma già dalle prime incarcerazioni, poi era scappato per alcuni mesi, ecco, poi però ora è già più di un anno che è comunque in una corte a New York, no? Incarcerato, quindi è scoppiata una guerra tra il cartello di Sinaloa, che più o meno per 5 anni aveva mantenuto la plaza, cioè lo snodo del business, quindi il passaggio di Tijuana, contro il cartello di Tijuana, che è degli Arellano Félix, che è una famiglia che è stato decimato ed era in qualche modo alleato, se non sottomesso, al Chapo Guzmán in questi anni, però ora sotto la leadership dell'unica donna leader di un cartello in Messico, che è Enedina Arellano Felix, appunto della famiglia storica, no, dei boss di Tijuana. Ecco, questa famiglia pare si sia alleata con il cartello emergente, forse il più importante cartello messicano attuale, che è il cartello Jalisco Nueva Generación. E non solo a Tijuana, dove adesso, proprio l'altro ieri, abbiamo raggiunto i 1000 morti ammazzati durante il 2017, e quindi non solo a Tijuana, certe impennate proprio nella guerra, e anche nel tasso di omicidi, si spiegano con Sinaloa, quindi questa lotta tra il cartello di Sinaloa e il cartello Jalisco Nueva Generación. Questa sta succedendo anche in altre regioni, lo stesso Sinaloa, dove è stato ucciso il giornalista nazionale molto importante Javier Valdés, per esempio, questo, se non sbaglio, nel mese di maggio, e anche nello stato del Veracruz, che sono un po' appunto i punti caldi, oltre al solito, diciamo, guerriero, dico solito, nel senso che lì è più zona di produzione e ci sono altri gruppi criminali in lotta. Quindi Fabrizio Lorusso, lo ricordo, insegna all'Università di León, ma anche giornalista, freelance, sta tratteggiando una situazione che è molto dinamica, no? È molto liquida, i cartelli si combattono, vi sono alleanze, vi è anche probabilmente passaggio di manovalanza tra un cartello e l'altro. Questa fluidità sul terreno è molto ben fotografata da un film di cui vi faccio sentire alcune atmosfere. Vuoi essere dei nostri? Potrò arrivare a chi è responsabile di quello che ho visto oggi. Arriverai a chi è realmente responsabile. Prima volta al confine? Andiamo a El Paso, giusto? Ogni giorno, lungo quel confine, la gente viene uccisa con la sua benedizione. Trovarlo sarebbe come scoprire un vaccino. Vettura Palo, corsia a sinistra. Vettura Palo, a ore 9. Stai pronto a sparare? Questo era Sicario, un film del 2015, il regista è Denis Villeneuve, con Emily Blunt e Benicio del Toro, forse qualcuno di voi l'avrà visto. È un film molto interessante perché intanto indaga, diciamo, la relazione tra Stati Uniti e Messico, quel confine così fortificato e militarizzato, ma che poi, insomma, i narcos riescono evidentemente a eludere. Ma poi racconta la storia di questa agente dell'FBI, Emily Blunt, che dopo una controversa operazione contro, appunto, un narcotrafficante, non capisce più tanto bene cosa è il bene e cosa è il male, e comincia a capire che vi sono anche le autorità messicane che sono coinvolte nel traffico di droga. Fabrizio Lorusso, quanto veritiera è la fotografia che vi ho restituito? Una fotografia, è vero, filmica, cinematografica, ma che, insomma, punta il dito su connivenze da parte dell'esercito, soprattutto messicano. Sì, purtroppo è abbastanza veritiera, nel senso che, infatti, tra gli altri fattori, oltre a, diciamo, la guerra tra questi due gruppi criminali, e poi c'è anche una guerra di successione tra sottogruppi all'interno del potente cartello di Sinaloa, no? Appunto, il Chapo ha lasciato, e ora ci sono i figli del Chapo, ci sono altri gruppi, l'ex ragioniere della banda, il capo storico Ismael El Mayo Zambada, eccetera. Quindi anche all'interno di Sinaloa ci sono delle dinamiche di questo tipo, che si stanno più o meno assestando proprio in questi giorni. Però ecco, c'è il fattore politico, due cose sul fattore politico. L'anno prossimo, e già da ora inizia la campagna elettorale, ecco, l'anno prossimo è l'anno elettorale delle presidenziali, si rinnova il Parlamento, eccetera, e quindi ci sono degli aggiustamenti a livello di stati, a livello nazionale. E però, come appunto, per arrivare proprio al punto, c'è la corruzione e l'impunità come due fattori che si retroalimentano e che coinvolgono le autorità, che sono parte del problema ormai, sono parte della criminalità organizzata in questo senso, nel senso che soprattutto a livello municipale e regionale e statale, ma poi anche a quello federale, ai gruppi dell'esercito, della marina, eccetera, che si credevano incorruttibili, in realtà non lo sono, in realtà iniziano a proteggere differenti gruppi, se non proprio a partecipare nel business, no? Soprattutto a livello municipale. Questo è risultato chiaro, soprattutto poi anche dopo i fatti di Ayotzinapa, no? In cui sono scomparsi 43 studenti, in cui è stata diciamo, rivelata la connivenza totale di questi gruppi come parte proprio di un cartello del narcotraffico, cioè è indistinguibile in certi territori la presenza della polizia da quella di gruppi armati. Si vestono anche allo stesso modo, agiscono spesso allo stesso modo, sequestrano persone, proteggono dei carichi, eccetera. Dobbiamo ricordare, Fabrizio Lo Russo, che per i cartelli messicani che guadagnano dal traffico della droga e quindi fatturano sempre tra virgolette evidentemente, milioni e milioni di dollari, comprare un ufficiale dell'esercito, comprare un'intera stazione di polizia locale è affare da poco. La criminalità organizzata, quando è così ben organizzata, evidentemente per un militare che guadagna poche centinaia di dollari al mese, è molto molto facile farlo passare dalla loro parte. Sempre in tema sicurezza, Fabrizio Lo Russo, fa stupore, forse neanche tanto, comunque il governo statunitense ha mandato una serie di avvisi per i turisti americani, per esempio a Cancun, ma anche in zone in cui prima, voglio dire, era abbastanza agibile andare, non c'erano particolari problemi di sicurezza. Il Dipartimento di Stato ha totalmente bannato il personale, cioè ha vietato al personale istituzionale statunitense di viaggiare per esempio nello stato di Guerrero. Questo è un segnale abbastanza preoccupante. Sì, infatti ho visto qui, è uscita ieri la notizia su queste città indicate dal Dipartimento di Stato degli USA, no? C'è da dire che loro hanno sempre queste raccomandazioni periodicamente, non è propriamente uno strumento di politica estera o qualcosa di così forte, semplicemente sì. Guardano dove sta aumentando effettivamente il tasso di omicidi o di sequestri e in base a quello stilano una lista di città, però appunto non tenendo conto delle dinamiche eccetera. Diciamo, il Messico vive comunque un boom turistico, questo è contraddittorio, no? Già dall'epoca precedente di Calderón, dal 2006, è sempre andata increscendo, sì, la presenza dei turisti, e soprattutto in Riviera Maya, ancora anche nel Guerrero e in altre zone. Di fatto Acapulco ha vissuto quest'anno un certo recupero, no? Io ci sono stato per fare dei lavori di ricerca e parlando appunto con la gente locale si diceva di una situazione più o meno stabile, anche se poi il tasso di omicidi è alto, no? Quindi in questo senso c'è sempre questo doppio Messico, per dirla così, in cui è possibile vivere, ma ecco, il rischio è sempre dietro l'angolo in questo senso. Per cui in quel senso lì arrivano, no, le raccomandazioni del Dipartimento, credo. Sì, Fabrizio Lo Russo, hai parlato di doppio Messico, un regista, stavolta è un documentarista, quindi non stiamo parlando di fiction, stiamo parlando di un documentario che fotografa la realtà. Ha parlato di una doppia faccia del confine statunitense e messicano, di una doppia faccia della lotta al narcotraffico. È Matthew Heineman, che nel 2015 ha girato Cartel Land, ha vinto il Sundance Film Festival. È un documentario eccezionale che vi consiglio. Sentite un po'. There's an imaginary line out there between right and wrong, good and evil. I believe what I am doing is good. And what I'm standing up against is evil. La doppia faccia del confine tra Messico e Stati Uniti raccontata da Heineman si sostanzia in due storie fondamentalmente. C'è un medico messicano, José Mireles, che comanda una rivolta contro un cartello della droga, quello dei Cavalieri Templari, e poi c'è in Arizona un veterano statunitense, un ex militare, che è a capo degli Arizona Border Recon per impedire proprio il passaggio degli spacciatori, di coloro che portano appunto la droga fin negli Stati Uniti. Questo film, questo documentario è molto interessante perché fa vedere la società civile che si mobilita sia in territorio messicano che in territorio statunitense per combattere i cartelli, e alla fine insomma ci fa dire il re nudo, denuncia il vuoto istituzionale soprattutto in Messico contro il narcotraffico. Non so cosa ne pensi, Fabrizio Lo Russo. Sì, infatti conosco bene anche quel film e infatti dipinge una realtà in modo abbastanza appunto veridico e diciamo centrato. Drammaticamente vero, drammaticamente centrato, sì. Ascolta, sì, intanto la cosa non si sottolinea troppo lì il problema della domanda, no? Il problema della domanda di oppiacei, soprattutto negli ultimi anni, tant'è che adesso è diventata emergenza nazionale anche sotto Trump negli Stati Uniti, e a oppiacei sia legali, quindi medicine, ma che però poi portano alla dipendenza e all'abuso di milioni di persone anche di oppiacei, quindi come l'eroina, la morfina, eccetera, nel mercato di contrabbando illegale. E qui ecco che entra proprio il ruolo del Messico come secondo produttore mondiale dopo l'Afghanistan, no? E quindi c'è questo flusso. In qualche modo, Fabrizio, stai già rispondendo a un ascoltatore, Nicolò, che al 349-238-6666 chiedeva se la recente legalizzazione della cannabis in alcuni stati americani avesse modificato in qualche modo le dinamiche messicane. Poi c'è un altro ascoltatore che si lancia una domanda difficile, qua è veramente difficile rispondere. Quali analogie possiamo riscontrare fra i cartelli centroamericani della droga e le nostre mafie che lucrano con la droga? Fabrizio Lorusso, questa ci bisognerebbe fare 3-4 puntate in Nessun Luogo Lontano. Sì, sarebbe... dovremmo fare tutta l'ora su questo, però sì, sul primo è più o meno già risposto in qualche modo. C'è stato uno spostamento con la cocaina che è stabile negli Stati Uniti e con la marijuana che in buona parte sta più o meno, la stanno legalizzando in molti stati, California soprattutto, eccetera. C'è stato uno spostamento verso gli oppiacei, le metanfetamine. Il leader è proprio questo nuovo cartello, anche il Jalisco Nueva Generación, anche specializzato dagli anni 90. Ecco, gli antecedenti di quel cartello sono cartelli, organizzazioni legate alle metanfetamine degli anni 90, e invece d'altro canto esistono dei nessi anche con le mafie nostrane, tra virgolette, no? Però diciamo europee, la mafia russa e l'andrangheta soprattutto, è stato sempre il punto di passaggio. Non tanto col cartello di Sinaloa e il Jalisco Nueva Generación, quanto con il cartello del Golfo e gli Zetas, che operano proprio dal lato dell'Atlantico, dello Yucatan, del Veracruz, Tamaulipas, quindi da quella parte che è anche più orientata all'Africa, all'Europa, all'Atlantico, e quindi ci sono dei vincoli lì. L'omicidio che c'è stato qualche mese fa a Playa del Carmen di un ragazzo, anche italiano, insieme ad altri, in una discoteca, è stato legato dagli inquirenti in qualche modo anche a una disputa che c'era stata tra differenti cartelli, cartello del Golfo e Zeta, legati rispettivamente alla mafia russa e agli italiani, all'andrangheta per esempio. Ecco, già insomma abbiamo trovato in pochi minuti alcuni punti di contatto, però l'ascoltatore ci dà uno spunto interessante. Siamo quasi in chiusura di stagione di Nessun Luogo Lontano, abbiamo ancora 8 puntate, magari potrebbe essere un ottimo spunto per la settimana prossima per realizzare uno speciale proprio sulle mafie che lucrano con la droga. L'ultimissima domanda, brevissimo, Fabrizio Lorusso, leggevo su Al Jazeera proprio questa mattina, c'era la storia di un piccolo teatro messicano che porta in scena però nelle case private la violenza in senso lato, come se fino a questo momento, essendoci così tanta violenza sulle strade, portarla anche in teatro fosse, come dire, un doppio schiaffo. Invece questo giovane, anzi non giovane, non tanto giovane, attore e regista messicano dice alla fine c'è un potere catartico nel mettere in scena anche quello che sta accadendo nel nostro paese. Questa mi sembra una bella reazione della società civile messicana. L'ultima domanda è proprio questa: quali antivirus trovi rispetto a un mercato della droga che mette insieme criminali ma anche forze dell'ordine, che sta mettendo in ginocchio un paese, che sta condizionando anche la politica che verrà? Come reagisce la società civile messicana? Sì, ci sono, diciamo, non è tutta uniforme la reazione, ma soprattutto nelle grandi città, ma anche in altre realtà, soprattutto nel centro-sud direi, ma poi anche alla frontiera con il tema dei migranti eccetera, c'è molta reazione della società civile e organizzazione. Ecco, è difficile per i movimenti della società, perché comunque esiste una repressione che viene da entrambe le parti, sia dalla criminalità organizzata che dal governo, in qualche modo da degli apparati perlomeno, no? Dalle polizie locali, da funzionari eccetera, che vedono come scomoda la presenza di gruppi della società organizzata, no? Per cui dopo il movimento di Ayotzinapa se ne sono sviluppati altri, sì. Ecco, quello dei genitori, il movimento dei desaparecidos in Messico, sì. Quello dei cercatori di fosse comuni, che stanno proprio letteralmente scoprendo, no, le stragi di questi anni e le fosse comuni in Messico. Proprio a Tijuana ne hanno appena trovata una nel mese di agosto con 300 resti ossei di persone, per cui questo movimento sta avendo anche un grande impatto mediatico, per sì. esempio. Quindi insomma esistono artistici. Esistono anticorpi nella società messicana che lottano con tutto questo monolitico ormai, insomma, baluardo che lucra sulla droga. Eh, Sì, esistono anticorpi, restano movimenti storici a partire dallo zapatismo, nel Chiapas, eccetera, che creano delle zone, delle macchie perlomeno di dibattito, di pacificazione, di alternativa sociale a quanto succede, eccetera. Chiaro, non sono ancora elementi maggioritari, certo. E si giocherà anche un po' a livello elettorale questo nel 2018. Ci sono alcuni candidati indipendenti, per esempio, da seguire, che magari non hanno chance di vincere. C'è la candidata indigena delle ZLN, per esempio, c'è il candidato dei diritti umani, Emilio Alvarez y Casa. Quindi ci sono varie proposte che magari conseguiranno in un'agenda politica. Certo. Un po' più strutturata e un po' più sì, antivirale, insomma. Sì. Grazie mille, Fabrizio Lorusso. Il tempo stringe, la borsa incombe. Ringrazio Fabrizio Lorusso, docente universitario a León in Messico e giornalista freelance. Grazie mille, Fabrizio. Buona giornata, buon lavoro. Subito la borsa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Seconda pagina di Nessun luogo è lontano. Come anticipato, vi porto in India. Inside the Supreme Court in New Delhi, 3 out of 5 judges handed down a ruling that many had been wanting to hear for decades. We are very happy. We have won. The bench has ruled out triple talaq. The bench has held that triple talaq is invalid. It is invalid. E come sentite, così Al Jazeera ieri, pochi minuti dopo la decisione della Corte Suprema indiana, raccontava un evento storico che, come avete sentito, era stato inseguito per decenni, soprattutto dalle donne musulmane di una corposa comunità musulmana in India, circa 200 milioni. Cosa ha detto la Corte Suprema indiana sul triple talaq? Ha detto che il divorzio islamico istantaneo è incostituzionale, quindi non è più valido. Per capire la rilevanza non solo religiosa ma anche politica e giuridica di questo pronunciamento della Corte Suprema ci aiuta il professor Massimiliano Vaghi, insegna all'Università degli Studi di Milano, si occupa di storia delle relazioni internazionali in età moderna e contemporanea, in particolare dei rapporti tra India e Europa. Il suo ultimo libro è I mondi dell'Asia, Mimesis 2016. Buongiorno professor Vaghi, benvenuto a Nessun luogo lontano. Buongiorno a voi. Allora, partiamo dall'importanza di questa pronuncia, intanto sul piano dei diritti individuali delle donne. Il servizio Al Jazeera sottolineava, intervistava appunto delle donne fuori dalla Corte Suprema, è una cosa che veniva chiesta a gran voce da tempo. Ad oggi non è più possibile il divorzio istantaneo con quella pronuncia tre volte, no? Talak, il ripudio, sì. Ho detto tre volte, a volte veniva anche con i social network, via sms, insomma c'erano anche delle storture, se volete. Prima considerazione, professore. Ecco, confermo, io non ho sentito il servizio sulla Jazeera, ho sentito quelli sulla BBC, ma credo che siano assolutamente equivalenti. Effettivamente questo istituto della tradizione musulmana, ovvero il divorzio per semplice pronuncia orale, che era in uso in India fino appunto alla sentenza di cui stiamo parlando, ma che non è in uso in una gran parte di paesi musulmani, cade ed è, come sottolineato da molte associazioni indiane delle donne, una vittoria appunto per il movimento femminile e per i cosiddetti musulmani moderati, cioè quelli che diciamo così si legano meno alla tradizione di alcune scuole coraniche che invece prevedono questa particolare forma, sì, di divorzio. Perché il problema, detto in estrema sintesi, sì, riguarda la diversificazione dell'Islam. Quello che noi chiamiamo abitualmente Islam è, diciamo così, si suddivide in una serie di scuole che interpretano il Corano e i detti del profeta e che, diciamo, in alcuni casi ammettono questo tipo di tipologia di divorzio, in altri no. Ecco, professore, fotografiamo fin dall'inizio la situazione e poi proseguiamo nella nostra discussione. Dopo anni di battaglie, il 22 agosto 2017, la Corte Suprema indiana ha decretato la vittoria delle donne indiane. Il divorzio istantaneo musulmano in uso in India, il cosiddetto triplo talak, è contrario alla Costituzione e il Parlamento deve intervenire. Il triplo talak è una consuetudine derivata da una specifica scuola del diritto islamico, che consente all'uomo di ripudiare la moglie senza alcuna spiegazione, semplicemente pronunciando tre volte la parola talak, ossia divorzio. Questa pratica, che è bandita in moltissimi paesi musulmani, dal Pakistan alla Libia, si è invece sedimentata per ragioni storiche tra la vastissima minoranza islamica indiana, che conta circa 172 milioni di persone, ossia il 14,2% della popolazione. Il triplo talak non prevede alcun obbligo per l'uomo dopo il divorzio e la sua diffusione ha provocato nel corso degli anni situazioni paradossali, con mogli che sono state abbandonate via SMS o via Skype. A portare il suo caso davanti alla Corte Costituzionale è stata Shayara Bano, una 35enne che nell'ottobre scorso era stata lasciata dal marito dopo 20 anni di matrimonio con una lettera, spedita mentre lei si trovava in visita dai genitori malati. Ma mentre il Parlamento si prepara a legiferare, la battaglia di Shayara apre diversi scenari politici. Da tempo il primo ministro Narendra Modi si pronuncia sistematicamente contro queste pratiche islamiche, una strategia che molti osservatori inquadrano nel nazionalismo indù propugnato con toni sempre più accesi dal suo Bharatiya Janata Party, ossia Partito del Popolo Indù. Modi, secondo molti, starebbe cavalcando queste battaglie per isolare sempre di più la minoranza musulmana indiana e affermare definitivamente la supremazia indù su tutto il paese. Professor Massimiliano Vaghi, è d'accordo con le osservazioni portate da alcuni analisti, da alcuni osservatori, cioè è il nazionalismo indù quello che sta guidando la politica e anche le decisioni, i pronunciamenti della Suprema Corte indiana? Sì, cioè nel senso che sono sostanzialmente d'accordo, cioè non si può nascondere che vista la situazione attuale in India, la situazione attuale del governo Modi, questa vittoria per le donne si possa leggere, diciamo così, potrebbe avere un risvolto per così dire oscuro, nel senso che quella conquista di non essere sostanzialmente ripudiate, sì, e si può effettivamente leggere come la volontà del governo nazionalista indù, perché di questo si tratta sostanzialmente a guida Modi, di rivendicare l'India come la terra degli indù e non la terra dei musulmani, quindi di mettere in crisi la forte minoranza musulmana presente in India, circa oltre il 10% della popolazione indiana, certo, il 10% della popolazione indiana. Quindi effettivamente il problema sottolineato, messo in evidenza nel vostro servizio, mi trova sostanzialmente d'accordo, la vedo anch'io così, ecco. Narendra Modi si è espresso, si legge sui giornali indiani di questi giorni, sì, si è espresso in maniera molto favorevole, sì, sull'abolizione appunto di questa forma di ripudio della donna. Ecco, certo, come si suol dire, delle volte a pensar male si fa peccato, ma ci si prende, come diceva appunto il nostro famoso politico da altri tempi, sì, e quindi l'idea che ci sia anche un gioco politico dietro questa vittoria di civiltà c'è, anche perché la condizione della donna non si riduce certo al problema del ripudio del matrimonio, questo lo fanno presente anche alcune componenti degli indo musulmani, sì, che sottolineano come ci siano altri problemi da risolvere nel mondo femminile indiano. Ecco, professore, ci sono anche altre componenti del mondo indiano musulmano che si sono già messe di traverso, no? Alcuni leader religiosi hanno detto è un'ingerenza dello Stato nella pratica religiosa. Qui è un problema un po' giuridico che vedo cerco di sintetizzare al massimo. La Costituzione indiana prevede che le comunità religiose facenti parte appunto della Repubblica dell'India regolino le loro consuetudini privatistiche a seconda del loro diritto religioso. Ora, la contesa in questo caso particolare del talak sta nel fatto se valutare o meno questa usanza musulmana come strettamente legata, per così dire, al Corano e quindi all'Islam, oppure se reputarla un'aggiunta posteriori, cioè qualcosa che non tutti i musulmani seguono. Sì. Ecco, quindi la componente tradizionalista degli indo-musulmani la valutano come una componente essenziale della tradizione religiosa indo-musulmana, sì, e quindi dice che costituzionalmente non si può abolire. La parte invece dell'Islam, diciamo così, moderato, la indica come un'aggiunta tarda all'Islam e che quindi invece costituzionalmente si può abolire perché non è connaturata alla natura stessa dell'Islam, per così dire. Chiarissimo. Non so se mi sono spiegato. Questa è la differenza. È per questo che la Corte in realtà si è espressa 3-2. I cinque giudici della Corte Suprema, sì. Due dei cinque giudici della Corte Suprema hanno invitato il governo e il Parlamento a valutare una forma di mediazione, quindi non è stata in realtà una bocciatura al 100% di questa usanza, ma ha un invito, tant'è vero che il Parlamento in ogni caso entro 6 mesi deve legiferare, e c'è l'invito di 2 giudici su 5 a legiferare in maniera tale da considerare anche queste obiezioni. Chiarissimo. Professor Vaghi, intanto approfitto della sua presenza perché c'è una curiosità da parte di un ascoltatore che dice: ma Modi si è impelagato politicamente con una guru dello yoga, cosa si dice, professore? Sì, parliamo di un simpatico personaggio, Baba Ramdev, uh-huh. Che è salito alle cronache della stampa internazionale in questi giorni perché è riuscito, sì, a far ritirare con una sentenza del Tribunale Civile di Delhi una sua biografia non autorizzata. Uh-huh. Questo Baba Ramdev è in pratica è stato uno dei finanziatori della campagna elettorale di Modi, quindi un tradizionalista indù che sta facendo un business considerevole vendendo prodotti ayurvedici con televendite televisive e proponendo corsi di yoga in televisione. Ah, insomma, un personaggio colorito, per così dire. Un personaggio molto colorito che, diciamo così, assomma in sé tradizione e modernità, per certi versi, come caratteristica spesso dell'India, sì, e che, diciamo così, fa parte dell'induismo radicale, per, sì, così dire, cioè è contro la macellazione delle vacche, sì, favorevole a perseguire chi macella le vacche. Peraltro è passata recentemente in India una normativa a livello federale che punisce chi macella le vacche e non solo, anche i bufali, perché spesso venivano fatti passare la carne di vacca, di manzo, veniva fatta passare per bufalo per poterla vendere, e allora per non sbagliare hanno messo fuori legge sia l'una che l'altra. Quindi in questa, diciamo così, boicottaggio della biografia di, sì, questo santone, sì, alcuni leggono un'ingerenza del governo che, diciamo così, mette a tacere le voci critiche su questa radicalizzazione anche dell'induismo, sì, diciamo che non si tratta, attenzione, di una censura governativa, sì, questo va detto, sì, è il Baba Ramdev in questione che ha fatto causa alla giornalista che ha scritto la biografia e il tribunale gli ha dato ragione, sì, quindi però, tecnicamente non parliamo di censura, però diciamo lo spirito è quello di cercare di limitare le critiche anche indirette al premier, ecco, se vogliamo. Chiarissima anche questa fotografia, un po' più di colore se volete, in chiusura, del professor Massimiliano Vaghi dell'Università di Milano. Ricordo il suo ultimo lavoro, I mondi dell'Asia, Mimesis 2016. Grazie mille, professor Vaghi, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Adesso noi andiamo sulle strade italiane. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun luogo è lontano. Ben ritrovato anche Ulisse, che non mi scriveva da un anno, al 349-238-6666, che è fantastico perché mi dà del sinistrorso pro-Islam. E quando chiuderanno questo schifo di trasmissione? A brevissimo, le ultime 8 puntate, Ulisse, abbia pazienza, ci sopporti. Fra l'altro stavamo raccontando proprio il contrario, no? Cioè, se volete, degli oltranzisti dell'induismo. Però, va bene, allora, ultima pagina di Nessun luogo è lontano, si vota, sapete dove? In Angola. For the first time in almost 40 years, Angola will have a new president. Only the third person to lead independent Angola after Agostinho Neto and José Eduardo dos Santos. Both men were from the same party, MPLA. Now rivals UNITA are hoping to take the reins. In the race for the country's top job, more than 9 million registered voters will choose between candidates from six parties. Allora, proprio in queste ore stanno votando 9 milioni di angolani. L'Angola è un paese molto importante, molto ricco di risorse, soprattutto il petrolio è stata la sua grande risorsa, ma anche la sua benedizione e dannazione, se volete, perché la politica angolana si è poi troppo appoggiata al greggio. È il secondo produttore nel continente africano, ma poi con la caduta dei prezzi del petrolio, insomma, si sono ritrovati col cerino in mano, come si dice. Fotografiamo il paese e poi andiamo meglio nei meandri della politica angolana. Dopo la fine della guerra civile, durata dal 1975 al 2002, queste sono le terze elezioni che si tengono in Angola e sono storiche, perché dopo 38 anni al potere, José Eduardo dos Santos lascerà il potere. 9 milioni e mezzo di elettori sceglieranno non solo il suo successore, ma anche i 223 rappresentanti del Parlamento. Il partito vincitore nominerà il nuovo capo dello Stato. Tra i partiti, l'MPLA, il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola, il cui vicepresidente e ministro della difesa, il 63enne João Lourenço, potrebbe succedere a Dos Santos. Poi c'è Isaías Samakuva, del partito UNITA, Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola, 71 anni. Mentre il primo si rifà dichiaratamente all'eroe nazionale Agostinho Neto e promette una maggior distribuzione delle ricchezze, il secondo vuole intensificare gli investimenti stranieri in settori diversi da quello petrolifero. Terzo incomodo, la coalizione elettorale Casa Sé, guidata da Abel Kivukuvuku. Mentre alcuni analisti osservano che Dos Santos continuerà a governare per interposta persona, sarà presidente del partito fino al 2020, i figli occupano posizioni chiave nel paese. Altri sottolineano le contraddizioni di un paese ricco di greggio, secondo produttore africano, ma che ha seri problemi di approvvigionamento di acqua potabile, scarsità di risorse alimentari e altissimi tassi di corruzione. Il mese scorso il Parlamento ha votato una legge che vieta al nuovo presidente di licenziare il capo dell'esercito, della polizia e dell'intelligence per i prossimi 8 anni. Un altro decreto ha garantito a Dos Santos l'immunità. Alcuni osservatori hanno bollato le mosse di Dos Santos come chiudere la porta e tenersi la chiave. Allora, per capire meglio cosa sta accadendo in questo paese in cui, un leader storico, un presidente che ha regnato per tantissimo, la seconda più lunga presidenza in tutto il territorio africano, cederà il potere, però rimane a capo del partito, però insomma un uomo a lui fedele diventerà ragionevolmente presidente, insomma cambierà un po' la facciata, ma in realtà il partito, l'MPLA, continuerà a rimanere al potere. Un paese molto importante perché è ricco di petrolio, di gas, di diamanti, anche di ricchezze naturali, di biodiversità, di animali, insomma sarebbe un tesoro inestimabile se non fosse che deve fronteggiare tutta una serie di problemi. Abbiamo raggiunto proprio a Luanda una ricercatrice di Human Rights Watch, Zenaida Machado, è stata per anni giornalista anche della BBC, proprio dall'Angola. A lei abbiamo chiesto innanzitutto un ritratto di Dos Santos. Sentite. I think is a man who stayed in power. Penso che si tratti di un uomo che è rimasto al potere usando metodi che hanno limitato la libertà delle persone. Ha usato servizi di sicurezza sempre più severi, ha messo a tacere chiunque osasse criticarlo, ha limitato la libertà di espressione e non ha concesso all'Angola alcuna possibilità di svilupparsi su questo fronte. Credo che per molti anni le persone del suo entourage abbiano ritenuto che il modo migliore per mantenerlo al sicuro e al potere fosse di limitare ogni voce dell'opposizione, le voci di tutti coloro che ritenevano che non fosse l'uomo adatto per il ruolo che occupava. La voce che sentite è quella di Zenaida Machado, ricercatrice di Human Rights Watch, scusate. C'è un problema e l'organizzazione se ne occupa parecchio, la Machado è proprio lì per occuparsi di questo, che è la corruzione. Sentite cosa dice. I think over the years and this is something that is very common in countries where credo che e questa è una caratteristica comune a molte nazioni nelle quali si mantiene al potere la stessa persona per molti anni. In Angola sia stato possibile nascondere i problemi. Mi pare che questa è la sindrome che sta per assalire l'Angola. Molte cose che erano rimaste segrete saranno rese pubbliche nei prossimi anni. Si parlerà degli errori commessi in un quarantennio, come ad esempio nel caso dello scoppio di un'epidemia di febbre gialla. Per lungo tempo si credeva che il governo stesse adottando le misure necessarie per evitare un'epidemia, ma quando la malattia si è diffusa è diventato evidente che non era così. E la stessa cosa è accaduta con la corruzione. Per lungo tempo i cittadini non hanno ottenuto alcuna trasparenza su come venivano impiegati i ricavi della vendita del greggio. E quando la crisi è esplosa, con i prezzi che aumentavano quasi del 100% e l'inflazione al galoppo, la gente si è ritrovata a spendere il doppio del prezzo che spendeva solamente un anno fa. La costruzione di tutti questi meravigliosi palazzi che avevano fatto guadagnare all'Angola il titolo di miracolo economico africano, adesso è ferma. La domanda è: cosa è stato fatto con i soldi del greggio? Cosa è stato fatto con i soldi della crescita economica? Non c'è alcuna assunzione di responsabilità per un eventuale impiego sbagliato di quel denaro. Sappiamo che c'è un'enorme corruzione all'interno del sistema e che questi meccanismi sono stati protetti dal governo e dallo stesso presidente. Sarà molto interessante vedere cosa accadrà una volta che il presidente lascerà il potere, perché chiunque verrà eletto al suo posto ha promesso di lottare contro la corruzione e tutti vogliamo vedere cosa farà per mantenere questa promessa. Cosa è stato fatto con tutti quei soldi? Così si chiede Zenaida Machado, ricercatrice di Human Rights Watch, già giornalista della BBC dall'Angola. L'abbiamo raggiunta proprio un paio di ore fa in diretta da Luanda. Beh, intanto anche gli angolani si chiedono cosa ce ne facciamo di $3 al giorno, che è più o meno la quota di stipendio che hanno per vivere. A fronte di che cosa? Beh, di un'elite, di un entourage attorno al presidente Dos Santos che, pensate, ha ribaltato la storia. Un articolo recente del New York Times racconta come l'Angola da colonizzata è diventata colonizzatore rispetto al Portogallo. Una serie di investimenti, una serie di importanti acquisti a Lisbona e non solo, fatti anche e non solo però dalla figlia, per esempio Isabella, del presidente Dos Santos. Ok, I mean it's not for me as a Human Rights Watch person to say that whether this system was transparent or not. Non spetta a me, in quanto funzionario di Human Rights Watch, affermare se c'è più trasparenza o no, perché non abbiamo controllato il processo nella sua interezza. Ma quello che posso dire è che il processo elettivo mostra alcune aree grigie. Prendiamo ad esempio il fatto che l'intero database elettorale è controllato dal Ministero dell'Amministrazione Territoriale e non dovrebbe esserci nulla di sbagliato in questo, perché solo il ministero è in grado di controllare l'intero territorio. Ma il problema è che il ministro in carica è anche impegnato nelle elezioni in tandem con uno dei candidati e che non è stato in grado, o non è stato abbastanza trasparente, per illustrare al pubblico cosa sta facendo esattamente. Ci sono stati, ad esempio, moltissimi reclami di cittadini che lamentavano di essere stati esclusi dalle liste elettorali o che i loro nomi sono stati inclusi in seggi estremamente lontani dalle loro case. Il grande punto interrogativo adesso consiste nello scoprire quanto questi problemi siano diffusi, ma saremo in grado di farlo solo alla fine di questa giornata, quando i seggi saranno chiusi e potremo scoprire a quante persone è stato negato il loro diritto di voto. Insomma, la grande area grigia consiste nel fatto che l'intero processo elettorale è sotto il controllo di uno dei candidati e non credo di dover aggiungere altro, perché si tratta di qualcuno che potrebbe ottenere vantaggi rispetto ad altri candidati. Tempo scaduto, i risultati si sapranno fra 24-48 ore e ve ne daremo ovviamente conto. Grazie mille Antonio Tali, Elisa Pancaldi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento è domani ore 16, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.